ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Il terzo giorno la signora Linton aprì la sua porta e, avendo finito l'acqua nella brocca e nella caraffa, chiese che gliene portassi dell'altra, insieme a una scodella di farinata, perché le sembrava di stare per morire. Mangiò e bevve avidamente, poi si lasciò ricadere sul cuscino e riprese a stringere i pugni e a gemere. «Oh, morirò!» esclamò, «visto che a nessuno importa nulla di me. Non avrei dovuto mangiare!» Poi, dopo un bel po', la sentì mormorare. «No, non morirò. Ne sarebbe contento. Non mi ama affatto. Non gli mancherei per niente.» «Voleva qualcosa, signora?» chiesi, mantenendo la mia espressione imperturbabile, nonostante il suo aspetto cadaverico e il suo comportamento stravagante. «Che cosa sta facendo quella apatica creatura?» domandò, scostando dal viso emaciato le folte ciocche di capelli arruffati. «È caduto in letargo o è morto?» «Nessuna delle due cose», risposi, «se allude al signor Linton. Sta abbastanza bene, credo, benché i suoi studi lo tengano occupato più di quanto dovrebbero. È sempre in mezzo ai libri, visto che non ha nessun'altra compagnia. Se avessi saputo quali erano le sue vere condizioni di salute, non avrei parlato a questo modo. Ma non riuscivo a impedirmi di pensare che stesse recitando una commedia.» «In mezzo ai libri?» gridò sbalordita. «Mentre io sto morendo! Ho un piede nella fossa! Mio Dio! Ma lo sa in che stato sono?» proseguì, osservando la propria immagine riflessa in uno specchio. «Quella sarebbe Catherine Linton. Lui si immagina che io stia facendo il broncio. Che giochi, forse. Non puoi informarlo che è una cosa tremendamente seria. Se non è troppo tardi, Nelly, non appena verrò a sapere quali sono le sue reazioni, io sceglierò tra queste due possibilità. O lasciarmi morire di fame subito. Ma questa non sarebbe una punizione per lui, a meno che abbia dei sentimenti. Oppure ristabilirmi e andare via da questo paese. È vero quello che mi hai riferito di lui? Stai attenta a quello che dici. È davvero indifferente alla mia vita fino a questo punto?» «Insomma, signora», risposi, «il padrone non pensa certo che lei sia fuori di senno, né tantomeno teme che si lasci morire di fame. Pensi di no? Non puoi dirgli che lo farò?» ribatté. «Convincilo. Digli quel che ne pensi tu. Digli che sei sicura che lo farò.» «No, signora Linton, lei dimentica», intervenni, «che stasera ha mangiato qualcosa e con gusto e che domani si sentirà meglio. Se solo avessi la certezza di farlo morire», mi interruppe, «mi ucciderei subito. Non ho chiuso occhio in queste tre orrende notti, i tormenti che ho subito. Ho avuto delle visioni, Nelly, ma comincio a pensare che tu non mi voglia bene. Com'è strano, ho sempre pensato che, nonostante tutti si odiassero e si disprezzassero a vicenda, nessuno potesse fare a meno di amare me. E adesso, in poche ore, tutti mi sono diventati nemici. Sì, lo sono diventati, lo so per certo. E parlo di quelli che abitano questa casa. Che squallore andare incontro alla morte circondata dalle loro facce indifferenti. Isabella terrorizzata e respinta, che ha paura di entrare nella stanza, sarebbe così sgradevole dover stare lì a vedere la povera Catherine che se ne va. E Edgar, che se ne sta lì impalato e solenne fino alla fine, poi rende grazie a Dio per aver riportato la pace in casa sua e torna ai suoi libri. Ma in nome di tutto ciò che ha un'anima, che cosa se ne fa dei libri? Mentre io sto morendo.» «Da quanto tempo mi sono rinchiusa qua dentro?» domandò, riavendosi all'improvviso. «Era lunedì sera», risposi. «Adesso è giovedì notte, o meglio, è venerdì mattina ormai.» «Della stessa settimana!» esclamò. «Così poco tempo!» E anche troppo per vivere di acqua fresca e malumore, osservai. Beh, mi è sembrato un numero esorbitante di ore, mormorò dubbiosa. Deve essere di più. Ricordo che ero nel salotto dopo il loro litigio e che Edgar è stato esasperante e crudele e che disperate sono corse in questa stanza. Non appena ho sbarrato la porta, un'oscurità totale mi ha sopraffatta e sono caduta a terra. Non riuscivo a spiegare a Edgar di essere certa che avrei avuto una crisi o sarei impazzita dalla rabbia se continuava a provocarmi. Non riuscivo a controllare le mie parole. Nella mia mente lui forse non immaginava la mia angoscia. Un'angoscia che mi lasciava appena la presenza di spirito per cercare di scappare da lui e dalla sua voce. Prima che mi riprendessi tanto da poter vedere e sentire, cominciò ad albeggiare. E ti dirò quello che ho pensato, Nelly, quello che ha continuato ad assillarmi fino a che ho temuto di perdere la ragione. Immagina che io, a 12 anni, fossi stata strappata via da cime tempestose, da tutto ciò che amavo e conoscevo, da ciò che allora era tutto per me, cioè Heathcliff, e fossi stata trasformata di colpo nella signora Linton, la padrona della Grange e la moglie di un estraneo, che fossi stata, insomma, esiliata, allontanata da tutto quello che era stato il mio mondo. Riesci a immaginare in quale abisso mi dibattevo? Scuoti pure la testa se vuoi, Nelly. Anche tu hai contribuito a ridurmi in questo stato. Avresti dovuto parlare a Edgar, sì che avresti dovuto, e costringerlo a lasciarmi tranquilla. Oh, sto morendo dal caldo. Vorrei essere all'aria aperta. Vorrei essere ancora una ragazza, una mezza selvaggia, libera e piena di forza, capace di ridere degli insulti anziché consumarmi di rabbia. Perché sono così cambiata? Perché il mio sangue si scatena e ribolle per qualche parola? Sono certa che sarei di nuovo me stessa se potessi stare ancora una volta sola in mezzo all'Erica, su quelle colline. Apri ancora la finestra, Nelly, spalancala, presto! Perché non ti muovi? Perché non voglio farla morire di freddo, risposi. Non vuoi lasciarmi la possibilità di vivere, vuoi dire, ribatté imbronciata. Ma non sono ancora così invalida. La aprirò da sola. Era una notte senza luna e tutto era immerso in un'oscurità nebbiosa. Non una luce proveniva dalle case vicine e lontane. Tutte erano state spente da molto tempo e quelle di cime tempestose non si potevano vedere in ogni caso. Eppure lei sostenne che riusciva a distinguere lo scintillio. «Guarda!» gridò eccitata. «Quella è la mia camera, con la candela accesa e gli alberi che ondeggiano davanti, e l'altra candela è nella soffitta di Joseph. Joseph sta alzato fino a tardi, non è vero? Sta aspettando che io rientri per chiudere il cancello». Rendendomi conto che era inutile discutere con lei, alterata com'era, stavo studiando come fare per coprirla con qualcosa, senza smettere però di tenerla. Non mi fidavo a lasciarla solo davanti alla finestra aperta, quando, con mia grande costernazione, sentì girare la maniglia e il signor Linton entrò. «Oh, signore!» gridai. «La mia povera padrona sta male e ha preso il sopravvento su di me. Non riesco proprio a farla ragionare. La prego, entri e la convinca a tornare a letto. Dimentichi il suo risentimento, perché con lei bisogna rassegnarsi e dargli la vinta». «Catherine sta male?» disse, affrettandosi ad avvicinarsi. «Chiudi la finestra, Ellen». «Catherine, perché...» Tacque. La faccia devastata di Catherine lo lasciò senza parole. e non riuscì che a volgere da lei a me uno sguardo di stupore inorridito. «È stata qui a consumarsi», proseguì, «senza mangiare quasi nulla e senza lamentarsi. Non ha fatto entrare nessuno fino a stasera e così non abbiamo potuto informarla delle sue condizioni, perché non le conoscevamo nemmeno noi stessi, ma non è nulla». Mi accorsi di avere dato delle spiegazioni maldestre. Il padrone si accigliò. «Ah, non è nulla? Ellen Dean?» disse con durezza. «Più tardi mi renderai conto meglio del motivo per cui non mi hai messo al corrente della situazione». Prese sua moglie fra le braccia e la guardò con pena. «Ah, sei arrivato, Edgar Linton?» disse con rabbiosa animazione. «Tu sei una di quelle creature che ci si trovano sempre davanti quando sono meno desiderate e mai quando sono desiderate». «Catherine, che hai fatto?» cominciò il padrone. «Non sono più nulla per te. Ami quel disgraziato». «Taci!» gridò la signora Linton. «Taci immediatamente! Se solo pronunci quel nome la faccio finita in questo istante. Salto dalla finestra. Quello che ora stai toccando lo puoi avere, ma la mia anima sarà sulla cima di quella collina prima che tu possa impadronirti ancora di me. Non ti voglio, Edgar. Non voglio più nulla da te ormai. Torna ai tuoi libri. Sono contenta che tu abbia questo conforto, perché quello che ti davo io non l'avrai più». «La sua mente vaga, signore», intervenni io. «Ha vaneggiato per tutta la sera, ma con la tranquillità e le cure adatte si riprenderà. D'ora in poi dobbiamo stare attenti a non inquietarla. La prossima volta che viene a farmi la spia, lascerai il mio servizio, Ellen Dean», replicò lui. Dottor Kenneth giunse con tutta l'urgenza che gli fu possibile. «Nelly Dean», mi disse, «non posso fare a meno di pensare che ci sia un motivo particolare per questa crisi. Che cosa sta succedendo alla Grange? Circolano strane voci quassù. Una ragazza sana e vitale come Catherine non si ammala per una stupidaggine. Anzi, la gente come lei non dovrebbe proprio ammalarsi, perché poi è un'impresa guarirli dalle febbri e simili malanni. Com'è cominciata?» «Glielo dirà il padrone», risposi. «Ma lei conosce bene il carattere violento degli Earnshaw e la signora Linton li batte tutti. Posso dirle questo: è cominciata con un litigio». «Heathcliff viene spesso alla Grange», continuai, «ma più grazie al fatto che la padrona lo conosceva fin da ragazzo che non perché il padrone ami la sua compagnia. Attualmente è stato dispensato dal fastidio di farci visita, visto che ha manifestato certe aspirazioni del tutto fuori luogo nei confronti della signorina Linton. Non credo proprio che sarà ancora ricevuto». «E la signorina Linton fa la sostenuta con lui?» fu la successiva domanda del dottore. «Non si confida con me», risposi, riluttanti a proseguire su questo argomento. «No, è un'acqua cheta», rifletté lui, scuotendo la testa. «Vuole fare le cose di nascosto, ma è una vera stupida. So da fonte certa che la notte scorsa, e che razza di notte era, lei e il signor Heathcliff hanno passeggiato per più di 2 ore e che lui insisteva perché lei non rientrasse, ma montasse sul suo cavallo e fuggisse con lui. Il mio informatore ha detto che lei è riuscita a dissuaderlo soltanto dandogli la propria parola d'onore che sarebbe stata pronta in occasione del loro prossimo incontro. Per quando sia fissato non l'ha sentito, ma raccomanda al signor Linton di stare allerta». Non chiusi occhio quella notte, come del resto il signor Linton. Anzi, non andammo neppure a letto, quando una delle cameriere arrivò di sopra ansimando e a bocca spalancata fece irruzione nella stanza gridando: «Oddio, Dio mio, che cosa deve succedere ancora? Padrone, padrone, la nostra signorina!» «Non fare tanto chiasso!» gridai bruscamente, arrabbiata per quel vociare. «Parla più piano, Mary. Che cosa c'è?» disse il signor Linton. «Che cos'ha la tua signorina che non va?» «Se n'è andata! Se n'è andata! Quell'Heathcliff è scappato con lei!» ansimò la ragazza. «Non è vero!» esclamò il signor Linton, alzandosi agitato. «Non può essere! Come hai fatto a pensare una cosa del genere? Ellen Dean, vai a cercarla!» È incredibile, non può essere. Dovrei dirle che Isabella mandò al fratello, circa 6 settimane dopo la sua partenza, un biglietto che annunciava il suo matrimonio con Heathcliff. Il tono era freddo e asciutto, ma in fondo al foglio erano tracciate a matita confuse parole di scusa e la preghiera di essere ricordata con affetto e perdonata se il suo comportamento l'aveva offeso. Affermava che allora non aveva potuto evitare di agire come aveva agito e che ora, a cose fatte, non poteva tornare indietro. Linton non rispose, credo, e passati altri 15 giorni ricevetti una lunga lettera che mi parve molto strana, venendo dalla penna di una sposa appena uscita dalla luna di miele. La lettera si concludeva così: «Heathcliff è ingegnoso e instancabile nel cercare tutti i modi per farsi odiare da me. A volte sono addirittura più stupita che atterrita da lui, eppure ti assicuro che una tigre o un serpente velenoso non riuscirebbero a terrorizzarmi come lui. Mi ha detto della malattia di Catherine e ha accusato mio fratello di averla provocata, minacciando di far pagare a me le colpe di Edgar, fino a quando non avesse potuto mettere le mani su di lui. Quanto lo odio, come sono infelice e che stupida sono stata. Non dire una sola parola di tutto ciò a nessuno alla Grange. Ti aspetterò ogni giorno. Non deludermi. Isabella». «Ogni ricordo dei morti è prezioso, se ci furono cari da vivi, Mr. Lockwood», disse Ellen Dean.